praticamente si fregano solo qualche centimetro, perché magari ci fanno l'intonaco nuovo, fanno al filo con la facciata, ho visto che mettono le stecchette quelle in alluminio, capito, per tirare dritto, la retina mettono per attaccare l'intonaco, insomma già stanno facendo un bel lavoro. La cosa più interessante è ci cambieranno pure l'ascensore nuovo, quello che si apre da solo, capito, a norma, ci devono fare lo scivolo giù nell'androne perché ci sono dei gradini, e noi avevamo realizzato uno scivolo ma non è a norma, è troppo in pendenza, ci hanno detto che quello è da rifare, per cui ci rifanno tutta la pavimentazione di nuovo dell'androne. L'avevamo fatto una decina d'anni fa e ancora era buona, però pazienza, si fa tutto lo stato. Praticamente il 110 noi l'abbiamo iniziato a giugno, il cantiere l'hanno iniziato da giugno, e anche se poi i lavori sono iniziati a settembre, capito, però loro l'impalcatura l'avevano già messa, quindi il cantiere è iniziato e loro hanno fatto la dichiarazione che avevano sostenuto almeno il 30% dei lavori, e quindi il 110 a noi ce l'avevano approvato tutto. Invece adesso pare che vogliano dare non più il 110 ma il 90%, capito, quindi una parte dei soldi li deve mettere la gente. Lavoro ne hanno dato tanto a un sacco di imprese, c'è tutto l'indotto, ci sono i vetrai che lavorano, ci sono quelli che fanno gli infissi, insomma, elettricisti, ditte che forniscono gli ascensori, insomma, chi fornisce i pannelli del fotovoltaico, capito, elettricisti, perché poi l'impianto fotovoltaico lo devi collegare all'impianto elettrico del condominio, capito, devi fare un contratto nuovo perché produce energia che ti servirà per le spese condominiali solamente, poi se ne produce in più quella se la prende la società con la quale hai fatto il contratto, così ci hanno spiegato, tu ne saprai più di me, Tony. Abbiamo fatto anche il corso noi per il fotovoltaico. Il fotovoltaico è molto più pericoloso della corrente 220, se è una cosa, perché ci ha detto come pulire, a volte non toccare quello, non toccare quell'altro, perché il colpo si fa secco, è molto alto l'inverter che ci sono lì. No, comunque, allora, nei palazzi che per esempio c'è la spalletta in marmo, sia dove ti appoggi tu la mano nella finestra o è laterale, anche sopra, perché la maggior parte sono così, e se li devono rimettere loro lo rivolgono lo stesso il marmo, e quindi automaticamente lo deve prendere più largo, perché sì, cresce 10-12 cm, visto quello dell'ecovio, caspita, è aumentato, è cambiato tutto quanto i marmi che ci abbiamo qua, è evoluti, Poi c'è una cosa che volevo dirti, un'altra cosa, giustamente Carlo, io essendo sindaco, so chi si sia chi compete, dicendo viene una lite eterna, me venga, ok, allora, sì tu c'hai gli operai tuoi, no, tu mi puoi mettere il 3 o 4%, il resto figli qua, nella mia città, perché la città abbiamo molti disoccupati, se no tu qua non ci lavori, io la penso così, questo dobbiamo fare i sindaci, ma questi si accontentano della mussarella e non gliene frega niente la disoccupazione che c'è a Sasse, e questa è la verità purtroppo Carlo, questo io ho detto un giorno o l'altro, secondo quanto mi dà la circolazione me la sto andando in Olanda, guarda, pure me ne vado in Spagna a Tenerife, perché mi sono rotto le scatole. Io sono in pensione, ho sempre lavorato, grazie a Dio, e persone che dicono che sono 10-15 anni che non trovo lavoro, non ci credo, perché è possibile. Se mi dici che sei 1 o 2 anni, lo posso crederci, ma 10-15 anni non esiste. E poi, ripeto, c'è molta disoccupazione qua, ma le poche persone che hanno voglia veramente lavorare, non c'è lavoro, perché il sindaco non fa questi lavori qua, che ho detto io. Questa è la cosa più bella della città, quando un sindaco fa il proprio dovere per la sua città. Avanti Brecco. Carlo, mi copi? Sì, avanti. Gavino, sono Gavino, mi copi? E che radio stai usando, Tony? Gavino. Supercar, liscio liscio, come mamma l'ha fatto. Com'è la modulazione, Carlo? Allora, modulazione, la voce Gavino è un po', mi pare, rauchetta, ma poco però. Non è pulita. Il segnale invece è Santiago 9 qua. Ho collegato microfono a mixer, sto usando mixer con la radio. un po' rauca perché sono vicino, allora così aumento le basse frequenze, così le vie e così le alte. Guarda un pochino Carlo se cambia qualcosa, abbasso un po' il master, guarda un pochino. Prova a lasciarlo così come l'hai messo adesso, andava meglio. Guarda un po' Carletto, allora, niente. Posso anche, diciamo, mettere, guarda, metto un po' di eco, guarda un pochino, e prova e sa. Perfetto pappa, bello però, già mi piace, non è esagerato l'eco, e già va bene Gavri. Tu come lo senti Tonino? Allora, segnale, ciao Gavri di nuovo, segnale 920 a casa mia. Ottimo, la radio come tu all'inizio Carlo, era proprio gracchiante, diciamo, non erano dei migliori. Adesso è migliorato leggermente. Diciamo non è come una radio che ti sentivo la prima volta quando hai preso quell'apparato e avevi, non so se era la BC60 o cosa cavolo era, aveva una bellissima voce come quella di Claudio, né più né meno. Adesso è diverso, va bene, ha fatto questi attacchi che stai dicendo, comunque ce va bene lo stesso, la radio di 5 è accettabile, quindi non vedo il problema. Poi adesso è perfetto, non c'è nessuno perfetto. Gavi, avanti. Io sono molto QRM qua, diciamo che non riesco a... Dai, Tony, non riesco a sentirvi chiari, capito? Niente. Se vi confermate che la radio va bene, la possiamo lasciare qui. Ho collegato un mixer, guarda un pochino, com'è? Lasciala così, per me va bene, Gavi. Va bene. Sembra che stai parlando che sei all'interno di un camerone grande vuoto, forse perché c'è anche l'eco e quindi, però si sente la profondità, capito? Forse col mixer è un sistema microfonico diverso e dà quella sensazione. Ha detto che ha molto QRM, capito? Quindi ci ascolta in difficoltà noi. Guarda un pochino, adesso ho messo un SM58, un microfono dinamico, diciamo, un microfono professionale. Per me sì, effetto cattedrale. Effetto cattedrale? Non lo so, aspetta un attimo che tolgo, ecco. Guarda un po', e prova. Lasciala così che va bene, capi? Fermo, adesso hai tolto l'eco e l'effetto cattedrale, come diceva Tonino, è andato via. E l'eco glielo faceva, capito? È positivo, ho attaccato un mixer, sto usando un mixer, che cosa, 2000 euro, un mixer digitale. Per carità, era annoiato, cioè adesso provo questo mixer a vedere. Niente, tra mixer e microfono ci sono 3.000 euro di roba adesso collegati. Niente, però è bello. È bello usare queste cose così. Adesso mi sistemo tutto in stazione e me lo lascio così. Se mi confermate che la radio di segnale è buona, lascio questa cosa qua, intanto usarlo, perché qui se ne parla a giugno. Ti ripeto, qua sei Santiago 920, perfetto, pulito. Vabbè caro, me era più forte, 930. La radio per me è accettabile, va benissimo così, lascialo così che va bene, certo se metti l'eco ti dà effetto cattedrale, giustamente. Sì. Caspita, questa radio sta uscendo con 10 watt, l'ho portata a 10 watt, 8 watt anzi, non 10 watt, 8 watt sta uscendo. Superstar è tremendo, va benissimo. Gavri, ma che uscite ha per collegare il mixer, quella radio lì, Superstar? No, in pratica Carlo, io ho l'MB più 5, l'MB più 4, no? E in pratica cosa ho fatto? Ho scollegato la capsula che avevo messo nell'MB più 4, ho collegato l'uscita del mixer a dove si attacca il microfono della capsula, e poi al mixer ho collegato il microfono che voglio usare io. Ma è una figata, perché qua ti vedi tu, ti fai tutta l'equalizzazione della voce. Io se vuoi adesso mi taglio, guarda, mi taglio un po' le basse frequenze, guarda un pochino, adesso dovrei avere addirittura meno bassi perché te le ho tagliate, dovrebbe essere la voce adesso anche un pochino più meliosa perché io sto facendo la curva tramite tablet, guarda un pochino, dovrebbe essere anche più forte la modulazione adesso. Ho capito quello che hai fatto, dai. Una cosa del genere, se non sbaglio, l'aveva fatta Franco a Sorso, che aveva collegato il mixer, e se non sbaglio era sempre il Superstar, e infatti per quello che ti ho chiesto, se avesse delle uscite apposite dietro quella radio, o invece hai fatto tramite, diciamo, un ponte dall'MBP4. Sì, positivo, il ponte dall'MBP4, attenzione, l'MBP4 l'ho collegato in alimentazione a 12 volt, 8 microampere, comunque dai, neanche un ampere di voltaggio, e niente, sto usando uno Shure come microfono e il mixer, questo qua è un Soundcraft, un I16. Insomma, ti sei dato agli esperimenti stasera, Gavri. Già l'avevi detto che stavi sperimentando. Pare che sia andata a buon fine, però, dai, già va bene come radio, comunque. Va bene, dai, è importante che sia tutto positivo e che mi sentiate bene, Sto aggiungendo sempre un po' di toni bassi, perché per risaltare la mia tonalità di voce, un po' di alti, niente, siamo al limite, secondo me può andare bene così. Esatto, già va bene così, adesso ti divertirai con tutte queste regolazioni di toni, di bassi, di questo, col mixer ci puoi fare un sacco di cose, poi ti si illuminano tutti i LED, capito? Già anche avrà un bel effetto ottico da vedere, se ti sistemi la stazione così ti lasci il mixer è una figata. È positivo, no, io questo qua non è un mixer, diciamo... sono gli ingressi microfonici davanti, però poi hai un rilancio con 40 canali e comandi tutto dal tablet, capito? Il mixer che va comandato col tablet, col computer, al suo tablet dell'iPhone, e niente, comandi tutto dal tablet e tutte le curve, dai, è bello. Bene, insomma, un po' di esperimenti ogni tanto non guastano. Vai, Tonino. Capo, c'è stato un pezzo di passaggio di Gabino che non è uscito in radio e poi si è ripreso tutto qua. Comunque, lascia così Gabino che va bene. Almeno, da parte mia va bene, da Carlo va bene, poi gli altri non lo so. Ognuno ci avrà la sua idea, come ti ascolta. Tonino, il fatto... aspetta, sì, è vero, ogni tanto non esce in radio, ti spiego il motivo, perché ho fatto una cosa, diciamo, un volante qua nella capsula e il filo sta facendo tocca e non tocca, adesso gli metto tutti i suoi attacchi, al posto della capsula gli metto lo spinotto e non dovrebbe più mancare niente. No, è divertente, è bello, dai, almeno... ogni tanto si prova qualcosa di nuovo. Già va bene così, dai. Va bene. Niente, io sto pensando invece di mettere una bella piccola lampadina di 2 watt, non di più, rossa, una punta dell'antenna, quando muso la succede si spegne, attenzione. Devo fare un attimo di bianco io, perché mi sono accorto che mancano alcune cose, mia moglie mi ha mandato un messaggio, mi avvicino qua vicino a casa al negozio e torno subito, penso un quarto d'ora, 20 minuti, se ci siete ci sentiamo più tardi, dai, tra un po'. Ciao Tonino e ciao Gavino, a tra un attimo. Cappa, fai quello che devi fare, prima dovere, poi piacere, non c'è problema Carlo, siamo qua. Poi se Gavino si sposta a fare questi lavori, c'è rimane che non ascolti, non c'è problema. Ok, avanti Gavino. Sì, ciao Carlo, io già sono qua, io sono tutta la sera in radio, quando vuoi entrare siamo qua, credo anche Tonino fino a un certo orario. e poi io ci sono anche stanotte, dopo cena, subito dopo cena entro a fare due chiacchiere. E dai, fate la buona, ci sentiamo dopo, riprendi tu Nino. K, d'accordo. E vabbè, comunque, capisci, sono contento, una cosa, che mi hanno chiamato l'avvocato per il medico fiscale, ma il medico legale, vuole tutti i documenti dell'ospedale, in più la cartella di alloggio richiesta, si stanno sbagliando l'assicurazione, così mi pagano. Bello, bello, bello, mi fa piacere, bravo, bravo, non cadere ai loro fatti e stai sulle cifre che ti hai messo tu in testa e vedrai che va tutto bene. Fai valere i tuoi diritti, Tony, e vedrai che la cosa è tutta positiva. Non loro cercheranno di tirare, di fare, di trovare scuse, e tu devi solo prendere e far vedere questi sono gli effetti medici e sono stato male io, non voi. Quindi penso che il mio danno venga risarcito con questa cifra, non con la vostra. Ma anche l'avvocato me l'ha detto. Certo, dopo quello che hai avuto non sei più lo stesso, giustamente è così. Allora, io ho sempre questa cosa di trapezza nella mano che io posso svitare una bottiglia di acqua perché mi fa male. Il piede è rimasto leggermente più gonfio dalla frattura che ha avuto. Ho avuto la frattura anche del corso con l'ematoma ai polmoni, il braccio più di quello non posso sollevarlo, che mi fa ancora male, con tutte le terapie che ho fatto, fisioterapia, eccetera, eccetera. Io, Gavi, sinceramente, 5 mesi ho passato veramente male, non lo auguro a nessuno, neanche più nemico che c'è sulla terra. So quello che ho passato io e quindi voglio essere risarcito come Dio comanda, né più né meno. Non è che sono ingordo dei soldi, ma non c'è prezzo per quello che ho passato io e quello del danno che ho avuto, capito? È positivo, come posso immaginare, nasce, ma tu chiedi quello che è, ed è anche, già è anche una questione di soldi, non ti preoccupare. Vai avanti per la tua strada e vedrai che risolvi tutto. Tony. Se non ci credi non ce la fai, se ci credi ce la fai. È capo che ci credo. Anche l'avvocato mi ha detto sì, interessa anche mio, perché più danno a te e più ho la percentuale anch'io, quindi ho un avvocato abbastanza in gamba che la conosco anni, quindi sono tranquillo per quello, eh. E vabbè, comunque niente. Questa cartella clinica me la danno il giorno 23, io il 23 ho l'appuntamento anche con questo medico collegato, se faccio il tempo io la chiedo un po' prima, perché tu la dici dei giorni, se riesco a ottenere la prima, infatti per anticipare, poi dipende tutto da medicina urgenza. Io adesso lunedì vado in un ospedale, medicina urgenza, le spiego tutta la faccenda e ho l'appuntamento con il medico legale. Se mi fate favore fate prima la cartella clinica, io vi ringrazierò 1000 volte, così chiudo anche questa benedetta pratica pensiera. Se no, pazienza, se ce la faccio, se no gli avvocato ha detto rimandiamo di qualche giorno, tutto qua. No, cosa, tu prendi e fai quello che fare, vabbè, già si è arrangiato tutto l'avvocato, che sono, loro lo sanno cosa fare, niente, non ti preoccupare, già si è arrangiato il dottor Antuelli. Tu guarda se in questo passaggio qua è aumentato un pochino la modulazione, fa la cortesia, ora, guarda se è aumentato un pochino, ma dovrebbe essere un po' aumentata. Sì, si sente amplificata comunque, capito? Comunque per me è sempre l'ottimana come radio. È positivo, ha alzato un po' il guadagno del microfono. Questa cosa l'ho fatta una decina d'anni fa io, questa cosa del mix l'ho fatta una decina d'anni fa e andava bene, l'ho dovuta riprovare oggi, comunque, diciamo vero, ma perché? Capita, ora, sta dando un po' di picchi negativi. E poi quindi sono più positivi, Tony, guarda un po', ola. Prova a fare 2-3 fischi a vedere. Guarda un pochino, se sono a picchi negativi o a picchi positivi. Allora, sicuramente va a picchi negativi perché mi sta dando la linea gialla nel mixer. Però guarda un pochino, ora, sa, e abbassiamo un po' il guadagno qua e alziamo un po' il master qua. Allora, sei da 9.20 a 9.10 quasi. Da 9.20 a 9.10, quando modulo, così è? Sì, picchi negativi. Quasi 9.10, 9.12, dai. E come mai tutti i picchi negativi? Come mai? E questo devi sapere tu. Io dovrei essere picchi positivi invece. Sì, sono a picchi negativi. Aspetta che faccio una prova, teniamo una prova. Ola. Sono a picchi negativi. Non ho capito il motivo, secondo me è corrente, aspetta un attimino, aspetta che rientro subito torno. Adesso danno positivo però Gavia. Fai tre fischi di... Prova a fare così. Positivi da 9.20 a 9.22, 23, non di più. L'importante è che siano positivi adesso. In modulazione sono positivi. Guarda un po', Sì, positivi qua. E allora, secondo me è corrente. Allora, stazionarie. Allora, vediamo un po'. Stazionare niente. Non lo so. Meglio così. Adesso anche le altre cose voglio vedere io quanto ne ho stazionare, cioè. Nulla, proprio stazionare non ne ho neanche io. No, stazionare è vero. Addirittura io uso il 450, mi sono accorto che non c'ho stazionare e l'accordatore l'ho staccato. Perché era un mezzo casotto. Se io seleziono i picchi sono positivi, lasciamo tutto così. Poi io dallo strumento mi sto accorgendo che stanno picchi negativi. In pratica... Cioè, non stanno picchi negativi. Capa, lascia così, che va bene, capito? C'è tutto il lavoro che hai fatto. Oh, se devi fare qualche cosa di attaccare, perché sta dicendo lo spinozzo, perché a volte tocca non tocca. La capsula, farlo, c'è problema lì. No, devo risolvere questa cosa di picchi negativi, devo risolvere, basta. Devo risolvere altro. Forse gli ho alzato troppo il watt della radio, lo sai? Lascia un po' la portante fissa, capì? Si porta leggermente un po' di alternata. Cosa? Si porta leggermente un po' di alternata. L'alimentatore, aspetta a vedere. Aspetta che stacco un attimo, attacco l'altro alimentatore. Ok. Ora. Ebbene Gavi, ci sì. Starà controllando la scuria. Eia, senz'altro. Mi ha scelto un attimo. Eia. Prova. Sì, Tony. Prova. Guarda un pochino com'è la situazione adesso. Peggio, c'è un rumore strano, brutto c'è presso. Un rumore brutto? Sì, radio proprio pessimo, quasi niente. Tutto rumore strano. Stai innescando, eh? E che io, ciao Tony, buonasera. No, ciao Fra, non è a te, a Gavino. Dammi un controllo, Tony, fa la cortesia. Ehi, sei 9.30, 9.32. Allora, 5 ultima, Fra. 9.32? Cappa. Volevo sapere a Gavino, mi sta ascoltando lì da lui. Sei proprio sullo 0, 9.30. Anche tu però vengo qui. No, volevo sapere da Gavino mi stava, come stava arrivando lì alla sua zona. E Gavino sta aggiustando. Va. A che tu andi una sigaretta? Tonino? E io? Ancora? No, adesso di me, quel rumore non c'è più. Come... non lo so. Ma chi era Franco De Sorso? No, adesso aspetta, adesso è un po' di importante, capi che c'è un titolo un po' strano. Bambino, c'è il tornato. Sì, c'è un po' di attaccata sotto. No, era Franco California. Oh, ciao, buonasera Franco. Franco? Ciao, vai in su. Ciao Franco, buonasera. Franco, sei tu. Lui è Gianni. Sono io, sono Gianni. Un attimino solo, tu dica, vado a scrivermi quel numero così te lo passo. Via. Ho un uso, bugliende. Ma prima c'era Franco. Franco, Franco, ancora le saline, sì. Oh, buon... E io. Avevo passato tutto il brugliorato, quindi... Oh, Franco. Franco, fatti dare il controllo da Gabino. No, io sono uscito un attimino, stavo facendo il fatto. E capo, dillo Gabino un attimino come ti sei arrivato. Allora, tu sei 9:25, 9:30 ancora. Attento, Gabino, mi ascolti? Ciao Franco, sì, ti ascolto, forte e chiaro. Non ti posso dare un controllo accurato perché sono un superstar e sono sto sperimentando. Fai un passaggio però, date una cosa approssimata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 1, 2, 3. E a questo smitter sei segnale 8 a picchi positivi, Segnale 8 a picchi positivi. A te come ti sta arrivando Franco nelle tue condizioni? Allora, il mio smitter si Santiago 9 Radio 5, però la radio non mi piace. Non ti piace la radio, non ti piace la radio, cosa trovi che non va? La sento strana, tutto gracchiante. La senti gracchiante, la senti gracchiante, la senti gracchiante, guarda un pochino se la senti meglio adesso, così com'è. Guarda un po', che tacco, perché ho collegato il mixer, capito? Guarda un pochino. Adesso va meglio. È positivo, è positivo. Dai, gli ho tagliato gli 80 Hz, gli ho aumentato un po' le tonalità alte, guarda un pochino. Adesso sì, Santiago 9, Radio 5, va bene. Perfetto, perfetto. Dove ti trovi Franco adesso? Io sono qua nel motore Rosello Auto. Ah, ok, non sei barra mobile. No, negativo, negativo, stazione fissa. Positivo, positivo. No, ti copio bene qua, ti copio bene, non ci sono problemi. La radio è Super 5, comprensibilissima. Tutto positivo, dai. Vabbè. Tutto lì. Ok, vai Tony. Tu intanto ti affacce. Tutta questa scelta, Franco, cosa mi stai combinando? Uia, proprio facevo, so, pure prima di cosa, tu già lo sai che sapeva fare, sì. Uia, va bene. Invece a me, perché è morto il mio suocero, domani c'è il mio funerale. Uia. Ma proprio con amico mio, di Guadalatana non so proprio niente. Il 23, il 22, cioè... Insomma, quest'anno, l'anno scorso ha chiuso male e ha iniziato l'anno nuovo male lo stesso. Oh, io... E se no lo so più uguale, poi... Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sei proprio sullo zero, Fanno scala, va. E io. E vabbè, ok. Sto provando un... barattino con un papo tipo il papà, però arriva che manca il Benson 860, lo conosci, senti preparato. Ma qualcosa sopra c'è? C'è qua batti qua, sì, qua ho messo un amplificatore la volevo non stava andando. Ma sei saturo mi fa. Ah, la passiamo le volte. Beh, Emanuele, ma mi ascolti a me. Beh, cico mi. Sì, amore, se mi sento. Dici lo stacco, dai. Così va meglio tu, no? Sì. Andave, andave. Emanuele arriva a 9:10 qua. Emanuele. Hai innaffiato l'antenna. La direttiva, vai. Comunque per avere quella temino ci forte, Emanuele. Va bene, capito. E quella lì sto già. Ce n'è un'altra, ce l'ho io anche io quella lì. E un'altra, ne ho recuperato una con la base magnetica, una Sigma, uguale alla tua. Sì, no, ma qua, dentro casa, senza bucare l'antenna a voi, dentro un caso. No, va bene, va bene. Qua arrivi 9:10, Io non so, da te sicuramente arriva a fondo scala. Oh, ma cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 9:20, 9:25, perché c'ho anche l'antenna dentro. Sì, già va bene, dai. Però io ho un problema sull'alimentatore, non ce la fa. Non ce la fa con l'alimentatore. quando attacchi il ronda, tu non abbiamo per in occhio, fino a sai sta cosa. Sì, ma ci vanno 40 ampere. Minimo un 40. Allora tu pensa che in prima posizione c'è un assorbimento di quasi 12-13 ampere. Vendo alimentatore 50 ampere. Già sì, non ce la fanno, perché lo sento che ronza. Buonasera a tutti, dai, sono entrato definitivamente, se tu li guarda che te l'ho mandato. Sì, l'ho notato, grazie. Cappa, chi c'è in ruota? C'è un Franco, poi mi sembra che abbia sentito a Emanuele. Avanti Emanuele, quindi tu dai, vediamo un po' come la ruota, perché non ho ascoltato, dai, dico la verità, stavo prendendo il numero per Tonino. Cappa, sì, ma insomma, sai, secondo me. Adesso com'è? Adesso di nuovo forte, la matta delle varie, non si ripete. E nulla! Ma cosa nuova, se non siete con 4-5 ci arrivi davanti a 9 dizi. Attaccato, qua miracolosa. Antenna. C'ha qualche lineare? No, ne ha lineare, urinare va. Chi ha servizzato, fa qualche scavio, qualche cosa, non si rubiglia. Capito, ci sei. E come qua? Via capo di nuovo, ecco Carlo, comunque mi è arrivato, mi ha mandato il messaggio Gianni. Già, va bene, ciao Emanuele, ciao Gianni, poi c'è Franco che non l'avevo sentito, buonasera anche a te Franco e Gavino e poi non c'è nessun altro a parte niente Emanuele che è entrato da poco. Ciao Carlo, mi hai sentito anche a te, buonasera. Ciao Carlo, buonasera anche a te, ben ascoltato. Mi ero assentato un attimo, infatti prima ero in radio da pochettino presto, intorno alle 5, 5 e mezza, a fare quattro chiacchiere, ancora sono qua. Un'altra buona mezz'oretta, un'oretta magari penso di trattenermi, perché poi devo cenare, stanotte c'ho la nottina che mi aspetta e quindi... prima delle 8 chiudo, dai. Vai Emanuele. Ehi, rimango un attimo in quei che sto preparando la cena. Roba buona c'hai. Capiduri e carne cavallo a dondolo. E carne cavallo già mi invito io da solo. Carne cavallo a dondolo, so. Già è buona. Nino, ti piace la carne di cavallo? A me sì. Gian. Ehi. Io l'altro giorno l'ho comprata, queste belle fettine bagliate in lenzuola, cantina animale. Ne ho messo il frigorifero con l'aglio prezzemolo, peperoncino, un po' di sale, le ho lasciate macerare dalla sera prima, le ho fatte il giorno dopo, ma erano un burro, tenere buone. Gianni, buonasera. Cosa vai, Gavino? Aspetta che ti posso dire una cosa io. Ecco, a voi. Gavino! Gino! Però sei trattenni, capi? Sono pensato con ma se ne compra di nuda, la ripeto è troppo. Passa sul vento un attimino, già. Ciao. Che cosa stai usando, Gavino? Un mixer. Ah, hai messo il mixer nell'apparato. Ho sentito che stavi praticamente uscendo con l'alternata poco fa, cos'è successo? Anche adesso. Prova a schiacciare. A voglia, sì, c'è alternata. Sai cos'è? Il mixer. Dai, mi sposto un attimo di canale controllo, ma la sento in cuffia. Fa dietro di RF sicuramente. Greco? Avanti! Un controllo veloce, se me lo volete dare, sto provando un'altra radio per vedere come va. Sta va bene, tranquillo, come al solito. Differenza c'è dalla solita mia? Non mi ricordo quando tu arrivi di segnale, però va bene, segnale tutto, anche la radio. No, la modulazione del segnale non mi interessa, sto solo provando come va in questa banda questa radio. È buono, Robè. Va bene, una radio presente, chiara, però normale, non è amplificata. Carlo, buonasera. La radio rispetto al tuo solito mi sembra meno radio, ma leggermente, capito? Le altre volte era più roboante la voce, invece questa ha un tono più basso. Aspetta, non mi faccio finire di parlare. Allora, la radio non è amplificata, è chiara e non è amplificata. Ah, quindi è più bassa della solita mia. Comunque saluto a tutti, saluto Gianni, Tonino, Carlo e poi non so chi ci sia. Ho fatto solo una prova per vedere come va questo tipo di radio, perché è nata per altri scopi, dai, però si fa sentire uguale. Roba, la tua voce è naturale, è la tua voce naturale, è chiara, limpida, però non è amplificata. Vabbè, qua posso utilizzare altri sistemi, dai, per aumentarla. No, l'importante è che sta bene, volevo per curiosità volevo capire come usciva in aereo. Questa. Dici che radio è almeno? Il 2000, il TS2000. Ah, cavolo. No, già va bene, è presente come radio, chiara, limpida, è la tua voce naturale, però ti ripeto, non c'è amplificazione. Cavolo, vabbè, è importante che funzioni, no, ero solo curioso di vedere se funzionava anche qua, su questo tipo di frequenza. Ok, vai, dopo mi sposto con l'altra radio, vediamo un pochettino le cose. Continuate voi, dai, sto facendo altre cose adesso, dai. Grazie dei controlli, grazie ai Gianni, e Tonino e Carlo, poi ti ripeto non ho sentito gli altri, saluto anche gli altri eventuali che fossero qua presenti. Se la fa in soldi? In soldi? Sì, se la fa in soldi. No, questa ci tengo, la radio che ho preso non da pochissimo, però funziona bene per altre cose e mi sto divertendo con questa. Dai. Ok, dai, buon proseguimento, dai, ci sentiamo magari dopo, fatemi fare delle altre cose che sto facendo delle prove. Ciao a tutti di nuovo. Ciao. Ciao Roberto, buon consigliere, cuore T, insomma, cuore X è quello che vuoi, noi siamo qua. Manuele, ma lo avete parlato? Gianni. E io. Poi non è attaccato quel microfono, Tony, quel Turner? No, negativo. E io. Vabbè, il mio l'ho venduto, 100 euro. Me lo sono venduto. Anche l'ho venduto, non ce l'ho più. Ah, peccato. Aia. Volevo prenderlo da te, magari 80 euro così. No, no, te lo davo 40. Kappa. No, sto scherzando. E vabbè. Adesso sono proprio senza microfoni da tavolo, non ne ho nemmeno uno. Ma che te l'hai venduto, scusa? Miglia, te ne parlo verticale, tu lì. Capito. Cosa dicevi? Dimmi cosa dicevi. In che dolore c'è tutto? Un Turner più 3. No, più 3 non ce l'ho. Ce l'ho più 4 e più 5. E quelli là sono Turner. Quelli sono MB più 5 e MB più 4. I Turner sono altri. Non so. C'ho l'altro, quello della del 60, c'ho. Cappa, io vabbè. Già lo busco uno, dai. No, ma io volevo più sa Delta, che è quello lì. Oh, yeah. Adesso tutti e due li ho venduti. Me ne sono mezzo pentito del sa Delta, però, perché andava bene. Vabbè, già lo ritroverò. KK, avanti a chi tocca, Carlo, vai, vai, facci sognare. Buonasera Tore, perché Tore è entrato ma io non l'avevo salutato. Buonasera Tore, ben sentito, siamo qua in compagnia di Gavino, Gianni, c'era Manuele che non l'ho più sentito, Tonino, che ci siamo da presto insieme, vediamo se è rientrato Manuele. Volete la cosiddetta VIP, ne ho io. Sì. Caffè o burro, Forse. Pare di... Andiamo, dove andiamo? Oh, andiamo male, se continua a usarlo. Oh già, ma tu non c'avevi l'espander. Ce l'avevo. Non ce l'ho più. Pure quello è andato via. Era troppo grande, Tony, troppo grande. Mi occupava troppo spazio, è troppo largo come cos'è. Dovevo tenermelo sulle gambe perché non ci sta. Allora mettevi la matrice per i picciolini. Cosa? Mettevi la matrice per i picciolini. Quello lì l'ho dovuto pure ripristinare, era tutto un bocio male. Avevo messo la capsula di un altro microfono perché non andava più, insomma. L'ho dovuto ripristinare un po'. E si dirti che invece perché era gatto? E cosa? Si sta vero perché era gatto. Perché mi fischiava, lo mettevo e fischiava e non mi faceva uscire come volevo. Mi sono rotto le scatole e l'ho venduto. Fischiava, Tony, non lo so perché. Adesso anche il ragazzo se lo mette lui e c'è più forte. Vabbè. Ma per il vostro, io non sono geloso, sono contento quando la gente esce bene. E io sono piccolino, rimango piccolino. Ah, non sei piccolino. Cava, guarda. A che aspetta? Manuele, avanti. Si sta facendo i gabberoni. Catta di fula. Tutte le ore dici sono di Dio. Poi tocca cara il cavallo, allora mi invito. Non è rientrato, è parito. No, non so che è andato a cucinarci la cosa. E non ti avvisa quando sparisce. Allora, ripeti, dopo che qui ci andiamo noi a trovarlo. Mentre anima una sera che ci ha invitato a mangiare i gamberoni. Cappagatta. Ma io no. Stasera sto leggero. La me la fotti nuda, perché l'altro giorno, l'altra notte, non ho dormito, ero troppo, diciamo, roba pesante, non lo so cosa mi abbia preso, diciamo, un blocco nello stomaco, come non una no, bruciore, ma blocco allo stomaco. Bruciore allo stomaco, ci avvisi, vabbè, non ti potete trovare qualcosa. Ma bruciore lotto, come ti servi una brida, innanzi al stomaco. Ma bruciore non ne avevo, c'era proprio come, sì, poi ho preso il digere, mi è passato, dai. Qualche cosa che ci mi è rimasta sullo stomaco, non lo so. A volte pensiamo di essere fatti di ferro, invece, per carità di Dio, io mi digerisco bene. Solo che vabbè, ho mangiato i peperoni, ve lo dico con la pizza, e probabilmente mi hanno fatto male qui. Ti sono rimasti sopra lo stomaco perché ero con la buccia. Ecco qui, qual è il velo che c'è trasparente? Quello lì è che fa male. Le peperoni sono pesanti. Vabbè, adesso abbiamo digeriti, dai. Uia, Carlo, allora, cosa mi racconti di bello? C'è pure la pasta della pizza, Gianni, che magari non era lievitata bene, perché i peperoni comunque, diciamo, sì, sono pesantucci, eccetera, però è sempre una verdura e lo stomaco li digerisce abbastanza bene, capito? Invece quello che secondo me ti ha fatto male è proprio la pasta della pizza, se non è lievitata bene ti ingolfa e ti fa sentire male di stomaco, perché è successo a me tante volte, capito? Quando non è buona la pizza è così, non sono le verdure. Niente, io stanotte lo stesso, cena leggera, una fettina in griglia, mi metto un po' di insalata, mi metto due pomodorini di quelli piccolini, verdi, e un po' di insalata. Mangio quello, la frutta, e alle 8-10 sto uscendo. Gappa gappa. Ah, devi lavorare stanotte. Signore, stanotte l'ultima delle quartine è sempre di notte, e quindi mi tocca la notte, poi domani riposo e anche dopodomani, a rientrare a martedì mattina. Va bene Carlo, dai, già passa la notte, dai. Sì, in effetti io peperonate ne ho mangiato tante di notte, non mi hanno mai fatto nulla. L'altro giorno quando ho preso la pizza, di solito è bella croccante, la sentivo cingommosa, infatti l'ho detta a Elena, ha detto oggi non mi piace come l'hanno fatta, mi sembra un po' cingommosa la pizza, e no, già è buona, e vabbè, e può darsi che sia veramente come dici tu. Sì, se era effetto cingomma non era lievitata bene, vuol dire che hanno tirato fuori i panetti fatti da poco e non gli hanno dato il tempo per lievitare, perché la pasta della pizza è così, se non è lievitata bene non ti viene fuori bene la pizza, capito? E rimane pesante da digerire. Cappa cappa. E vabbè, mi è passata. Io a volte preferisco più le pizzette al taglio che con la grande, ci credi? Cioè, quello sotto casa le fa belle croccanti, quelle pizzette al taglio, gli metto un po' di origano quando arrivano a casa, perché lui non le mette, gli metto un po' di origano in mezzo e via. Quelle che tu dici, siccome le prendono già in teglia, eccetera, gli danno a volte anche la precottura, quella è pasta che lievita anche di più. Infatti quante volte le ho prese io le pizzette al taglio, mai problemi mi hanno dato a me. No, se non poi sono ben buone, sono belle saporite, li mette molta mozzarella qua giù, li mette molta mozzarella, non guarda spreco. A volte ci mette anche qualche acciughetta in mezzo, ma no, non di più, Già va bene, già va bene. Invece Tore stava parlando di gamberoni prima. Vai Tore. Allora, lì vicino di casa, che ieri ci ha invitato a mangiare gamberoni a me a Gianni, invece non vi siamo andati. Poi aia, di notte, Tore. Allora, ieri notte, ieri sera, da. Carlo, se sai quanto le piacciono a te i gamberoni, boia! Vanno sullo stomaco. Ma lo sai Gianni, non è buon mangiare. Nino, ci sei ancora? Eia. Perché Gavino non l'ho più sentito, forse se n'è andato sull'altro canale per fare le prove. Oggi era di mixer, Gavino. E Franco che fine ha fatto? Franco? Sto finendo di salutare un PL qua che era a massa. Ok. Manuè, questi gamberoni l'ha caricato, fatelai. La gente che sparisce così sparisce. Anche ieri sera ha fatto così. Che bello, che silenzio. Lasciamo un attimo di bianco a vedere se entra qualcuno, ma mi pare che non c'è nessun altro. E va bene, allora riprendo io e niente, 17:05, un'altra oretta, però in radio penso starò un'altra mezz'oretta perché poi mi preparo la cena e già faccio veloce, io non è che sto lì 30 anni, due pezzettini di pane, la frutta, la fettina, l'insalata e poi stanotte niente, sino alle 5 già mi porto solo l'acqua, non prendo altro, un caffè più tardi mi prende intorno alle 11 prima che chiuda il bar e poi tutta una tirata sino alle 5. Beato te. Gianni, cosa stai preparando di buono stanotte? Devi darci a un telefono, devi darci. Oppure sta preparando qualcosa, magari si è spostato un attimo. Sì, sicuramente. Vediamo se ha ripreso Manuele. Manuele! Non c'è. Tonino, riprendi tu. Allora deve essere al telefono, dai. Deve essere al telefono anche Tonino. Niente. Roberto prima l'ho sentito con la radio BS V2000, cos'è che ha detto, però era sì, la voce sua, io ce l'ho vicino a casa e il segnale fondo scala qua, però era una radio, forse il microfono magari, un po' effetto, non lo so, effetto citofono, più bassa la radio, capito, non era preamplificata la voce, quindi lo sentivo un po' più basso del solito di radio, capito, però già andava bene comunque, già era chiara la voce. Vediamo se c'è ancora Roberto, se sta facendo altro. Avete fatto prego i gamberoni? No, state ne vai, entrate così. Tutti i gamberoni mi avete fatto bruciare, Manuel, io cazzo, attento a non far bruciare. Ti prego. Buonasera a tutti, non so chi ci sia sul canale, ho appena sceso e volevo chiedere a Carlo, visto che è vicino, magari così non c'è QRM sotto, se la radio sta andando bene. Sto usando una radio che era ferma qualche mese e vedi un po'. Va benissimo Marco, da questa parte va benissimo, segnale qua fondo scala, quindi sei un 9 più 30 buono, la radio super 5, c'è Gianni, c'è Tonino, c'è Tore, c'è Emanuele, c'è Gavino, ma sta facendo delle prove con un mixer, con la radio e un po' di gente stasera, dai, avanti Marco. Siamo entrati, eccoci qua, come tu, ma siamo di vostri, che mi avete fatto bruciare tutti i cammaroni. Fa un raggio, ascolta, ma c'è Garri, cavolabondo, lo porta? Ma sei la magnata, Tonì. L'ho già mangiata, io l'ho già mangiata, Pauraccio. Io l'ho già mangiata. Tu l'hai già mangiata, è proprio così, aspira polvere, sì. Io lo sai che sono delicato, devo mangiare queste cose. Ma poi dici che si pare un buco, il buco. Lo sai che sono delicato, eh? Si vede, purtroppo si vede chiaramente. Oh yeah. Già, ma già, ancora? Salvate Carlo. Prima è entrato Marco a chiedere un controllo, volevo sapere se c'era ancora. Sì, sì, ho sentito gente che parlava anche bassa e non volevo sovramodulare, K. Ciao Marco lì. Condor! Aspetta, premete bene prima di parlare però, se non si sente la metà del saluto. Ciao Marcolino. Buonasera a tutti, non mi trattengo perché tanto devo mettere la moto dentro, un'altra rottura di scatole. E stavo provando un baracchino che era fermo mesi, il CRT 9009. Ma te l'immagini questo Marco Condor, entra a riprovere a tutti, boh. Ma. Ciao Marcolino, da questa parte è più Stallone. Chi è basso? Più Stallone. Fate la ponte. È più Stallone. Ma capito, se stai dicendo più Stallone, è il mio vicino di casa. Perché c'ho il QRM a 6 circa, qua c'è un casino di QRM. E il segnale 7, ma Emanuele arrivava meglio di così, boh. Che Emanuele praticamente sta usando un'antenna dentro casa e con un'antenna provvisoria, quindi non arriva molto, molto forte, capito? Sì, ma cosa sa, ho sentito Pisellone. Mio Stallone. Boh, non me sto capendo. Amplifo. No, già, che sei tu, come se parlassi vicino al mic, uno è basso, l'altro è tutto, Carlo è quello che dice meglio, e tu Nino anche. Più Stallone, perché io male? No, se parli lontano al mic va bene. Manuel, aspetta che tolgo lo squelch. Marco, mi ascolti? Ma ti ascolto, mi ha tolto lo squelch. Dio mio, tutto squelciato era. No, c'è un QRM allucinante qua, da quando c'è il ponteggio, per carità. Mi ascolta Carlo, oggi tu come senti? Manuele, io già ti sento, carissimo. Ehi, Natali. Ciao Natali. Buonasera a tutti. Buonasera Tattali. Saluto. Saluto il trigo. Natalino, ai. Spostati 23, Tore, un attimo. Io 23. Buon tutti con comare sono qua. Alleluia. Andate, dai. Mettiamoci un po' in ordine. Avanti, Tonino. Vai, fai il brutonino, Tonino è innamorato del telefono, va. Lascia restare queste donne che ti fanno uscire di testa. Sempre piccionciando, sta. Non può impazzisce con questa donna. Oh, non si può fare il gace di là. Andiamo, tu riprendi. Produttore si è bucciato. Ore. Al 23 mi sei. Tutti al 23 sono andati. Ah, è giusto, con l'attalino è andato. Riprendi tu, Carlo. Sicuramente si saranno spostati. Qua eravamo in tanti. A volte non c'è nessuno, a volte siamo in tanti. E vabbè, dai. Già va bene così. Sicuramente sì, perché Tore spesso se ne stanno là sul 23. Niente, le ha chiamato Tonino prima che a vedere se era giusto il numero, così me lo sono segnato anche il suo Gianni. A te il microfono. Va bene, dai. No, glielo ho dato poco fa. Vabbè, ma no, già è giusto, l'ho copiato, lo so. Naturalmente l'ho controllato prima di mandarlo. Ho capito. Va bene così, magari ci mettiamo d'accordo una mattina, ce ne andiamo a berci un caffè magari o in Piazza Lessegno, dove volete voi. Noi andiamo sempre a bere il caffè. Di Piazza Lessegni? Appa. Già va bene, qua è vicino a casa pure, a un tiro di schioppo, dai. Sì, perché così ci conosciamo con Tonino di persona, se no sempre alla radio non va bene, capito? Lo sai che io prima, ti parlo di tanti anni fa, non volevo conoscere nessuno perché dicevo che poi spariva il fatto di immaginarti come la persona, tutte queste cose qua, proprio la fantasia di immaginarti la persona. E allora ma non volevo conoscere a nessuno. Mi diceva tutti, rivestito bene, le ragazze, mi diceva, vestito bene, stavi bene, come rivestito, avevi la macchina, mi diceva cosa c'era dentro la macchina, io non sapevo manco chi era. Perché magari uno si fa l'idea in base alla voce che sente sempre in radio, no? Poi magari è tutta un'altra persona, è diversa da quella che aveva immaginato, capito? Succede quello. No, per me non ci sono problemi. Io anzi preferisco conoscerle anche di persona, la gente, insomma, per radio sì, va bene, purtroppo non puoi conoscere tutti perché è quasi impossibile che ci si incontri, però vabbè, quando c'è la possibilità a me fa piacere. E io vabbè, adesso l'ho preso diversamente, ma quando ero più ragazzo, solo un ragazzo doveva conoscere. Poi ormai siamo tutti vecchietti qua in radio, di giovani ce ne sono pochi, Io sono giovane. Quanti ne hai, Tony? 36. Per gamba? Quanto siete monilica? Comunque non dimostro l'età che ho, dai. Quest'anno faccio un bel numero, Ci sei arrivato, che numero faccio, bello? 60. 69, il numero dell'amore. Bravissimo. Visto che ne so. Mosso. È un bel numero, cavolo. Tutto slinguato. Oh, c'è a chi non piace, ma non sanno cosa si perdono. A me mi chiamo il maestro, poi. Ma io non sono mai stato schizzinoso, però, Gianni, ma ce n'è parlato Gianni? Ah, io mi dissocio da questi discorsi, cioè sennò poi ci critico. No, noi parliamo di cose serie, dai, normali. A me mi ero svaliziato qua, io ero così serio, tranquillo, queste cose manco le sapevo, capo. Clarendo. No, stavo scherzando comunque. Sono dei numeri, sì, dei numeri belli. Numeri eccezionali, Gianni, quelli, Di solito dico da 69 puoi arrivare fino a 96 anni, magari metto la firma. Già va bene così. Beh, quando prendi male la curva poi fai testa e coda, Marco, sei ancora collegato con quella radio oppure hai ripristinato l'altra che avevi? No, sempre questa. È quella che mi piace di meno come radio. C'ha più watt di tutte, ma è più piccola, non c'è un granché di attrattiva come estetica. Il 3009 è più bello, almeno a vedere. Questo è piccolo, vabbè, però mi sta prendendo la gola. Ho pigliato freddo in moto. Facciamo così, adesso mi faccio un giro, completo la spesa e metto la moto dentro, se no va a finire che non ne ho voglia poi. Oh Carlo, ma che macchina non ne hai? Come, Tony? Ma pardon Carlo, volevo dire Marcolino, non ne hai macchina? Sì, ma qua è drammatico il parcheggio, Tony, è drammatico, se... E siccome la muoviamo poco, se no la devi lasciare una settimana distante, c'è la batteria che a saffuria di star ferma, la macchina sta un po' perdendo. Almeno se mi si scarica, se lo vicina la macchina, se devo caricare la batteria. Non mi piace più guidare la macchina, la verità, non più come prima. Non è tempo e periodo di guidare la moto, questo freddo, per carità. Io ho visto i pinguini passeggiare l'altra volta, mamma mia, no. Vedi macchinuzze col calduccio, io problemi parcheggio non ne ho. Tutto proprietà privata, c'è la comanda per cancella dentro e arrivo fino a sotto casa. Ma se vedi che tu... Ma Franco, non ci mai... Ma re buco. Manuel, fai passaggio. Mi ascolti, Marco. Ho toccato qualcosa, ho messo il noise blanker, meglio. Io sono il vabbè liscio, questo c'ha 30 watt modulati, però poi con la... Insomma, mi ascolti almeno, sì. Ehi, Avulia. Sì, ma prima non capivo il passaggio, pisellone, cosa mi avevi detto? Pisellone. Siamo lì, dai, la forma è sempre fallica, siamo lì. Va bene, signori, io vi saluto tutti e faccio sto giro e metto lo scooter dentro, che non ne ho voglia oggi. Ciao Gianni, Carlo, Tonino, Manuele, Natalino, che all'ascolto, modula Natalì. Prima era la scusa dei mondiali, adesso non c'è la scusa dei mondiali, devi modulare, lui si aggiusta l'antenna, te l'ho detto mille volte. Insomma, un saluto a tutti, non mi ricordo se ho dimenticato qualcuno. Riprendi Gianni. Ciao Marco, ci sentiamo, dai, con quell'X. Poi mi dirai se hai risolto per il cavo dell'antenna. Vabbè, adesso ho giuntato con un barilotto. Ma per il risarcimento, quello già glielo tolgo quando gli do il saldo, che gli piace o no. Cavagava. Vabbè, va. Riprendi Carlo. Ciao Marco, ci sentiamo, buon QRT. Vai Tonino. Ciao Carlo. Buon rientro della moto e buon caffè, tanto so che di solito a quest'ora ti prendi sempre il caffetto, non c'è problema. Natalino, sei entrato qua? No, è sempre sui 23 allora, da quel segreto. Manuele, allora, quando è che mi la passa già a carre a Rosango? Manuele, dico Manuele, mi già passare le dita, non è dove fare. Sei passato anche lui al 23. E fa un ricchi di porco allora. E anche perché io non ci sono neanche andato.